A bordo campo di Dario Ricci. La partita la vinciamo, la perdiamo noi, e un'altra volta l'abbiamo persa noi, però sicuramente siamo usciti di quel campo a testa alta, perché sicuramente dopo aver perso contro l'Inghilterra così brutti come siamo stati settimana scorsa, oggi sicuramente la difesa è andata molto meglio, la touche abbiamo lavorato tanto, è andato un pochettino meglio, ma dobbiamo ancora lavorare. Tante volte ho visto questa squadra fare un passo in avanti e subito un altro dietro. E sì, lo avete sentito dalle parole di Martin Castrogiovanni, uno dei leader dello spogliatoio della nazionale azzurra di rugby. Tempi duri per gli azzurri della palla ovale che, ahi noi, sono stati sconfitti malgrado la prova orgogliosa e sfortunata anche contro il Galles. Sei nazioni tutto in salita, staremo a vedere se riusciranno gli azzurri a conquistare almeno un successo, magari chissà contro la Scozia all'ultima giornata, ma intanto c'è un'Italia che nel Sei Nazioni vince e convince. Vero, Giuliana Campanella, benvenuta a bordo campo. Grazie. Sì, sicuramente vince. E convince anche perché Giuliana Campanella è la terza linea della nazionale azzurra di rugby, che è fresca vincitrice proprio contro il Galles alla Spezia, 12-8, vittoria storica, prima vittoria di quest'anno nel Sei Nazioni, ma le nostre azzurre già l'anno scorso hanno vinto in Galles, vittoria altrettanto importante quella, ha ottenuto un pareggio con la Scozia. Insomma, Giuliana, qua fra un po' Castrogiovanni e soci bussano alla porta e cominciano a chiedervi qualche suggerimento, Non credo proprio, però sono orgogliosa della mia squadra, abbiamo fatto veramente bene e possiamo soltanto che fare meglio. Una fotografia di questo pomeriggio di La Spezia, che penso che già è negli album delle fotografie indimenticabili. Oh, bellissima giornata, iniziata anche abbastanza bene, a me non capita spesso di andare nello spogliatoio dopo 40 minuti vincenti, noi siamo sempre un po' sotto di qualche punto nei primi 40 minuti, invece siamo andati dentro già vincenti e quindi è stato molto più semplice per noi italiane rientrare in campo per cercare di mantenere il punteggio. Abbiamo avuto un po' di sfortuna perché l'arbitro ci ha anche annullato due mete che sicuramente c'erano, però questo vabbè. Le teniamo per la prossima volta. Infatti. Allora. Senti, ormai le gallesi quando vi incrociano voltano l'angolo, perché ogni volta che vi capitano sotto mano sono ammazzate. Effettivamente sì, ci sono rimaste male, ma anche loro quest'anno avevano molte ragazze nuove, quindi magari se l'aspettavano. E noi effettivamente abbiamo giocato meglio del solito, forse perché appunto giocare in casa la partita è diversa e la senti in maniera differente, visto che avevamo anche un pubblico abbastanza caldo. Prima regola del rugby, sfruttare tutte le occasioni, ce l'hanno insegnato sulla nostra pelle O'Gara e Hook, no? I grandi campioni dell'Irlanda e del Galles, e direi che voi avete imparato la lezione. Tra l'altro immagino successo che fa doppiamente piacere per chi come te fa la pendolare del rugby. Ora intendiamoci pendolare nel senso che tu sei messinese e non è che si tratta solo di andare in giro in trasferta con la nazionale nelle varie sfide del Sei Nazioni, ma anche perché tu passi metà dell'anno a vivere nella patria mondiale del rugby, in Nuova Zelanda, no? Com'è successa sta cosa? Spiegaci un po'. Il rugby mi ha portato in Nuova Zelanda, possiamo dire, sì, ho sposato un giocatore di Auckland, vivo lì, ho due figli e faccio la pendolare, gioco lì, mi alleno lì, ho una squadra eccezionale anche lì, nuova, una squadretta che mi aspetta effettivamente per inizio campionato e niente, torno qui a giocare, quindi la mi alleno, lavoricchio, faccio la mamma, poi vengo qui e mi diverto. Insomma, giornata piena direi, Sì. Ecco, so che in Italia molte due compagne di nazionali spesso devono un po' lottare anche con i datori di lavoro per avere permessi, ferie. Ecco, in Nuova Zelanda c'è una maggiore attenzione alle vostre esigenze. Sì, sono molto più disponibili e oltretutto si riesce a conciliare, anche perché là si gioca il sabato e la maggior parte delle persone non lavora il sabato. Quelle poche riesce a cambiare il turno almeno una volta, due volte alla settimana. Anche perché giocando tutte le settimane del mese è una cosa dura, è veramente un grosso impegno. È molto più semplice e rilassante giocare a rugby in Nuova Zelanda, comunque non ci sono le difficoltà dell'Italia. Anche perché quando dici che vai a rugby ti accompagnano loro, ma insomma. Infatti, oltretutto tutti hanno giocato a rugby e nessuno ti direbbe no, sai, c'è la partita, non puoi andare. No, vai, non ti preoccupare, recuperi un'altra volta. Chiudo io l'ufficio, vai in allenamento. Chiudo io, tranquillo. Invece quando vieni qua in Italia la senti molto questa differenza, questo clima, il fatto che venite viste un po' come le marziane che chissà perché vanno a sporcarsi di fango 2 o 3 volte a settimana, sì, e magari vincono pure una partita. Sì, la gente non si spiega il perché una donna voglia fare questo sport, perché ama stare sul campo da rugby e sporcarsi, appunto, riempirsi, prendere le botte come dicono. Ma io non vedo questa differenza, per me è uno sport di combattimento e forse per il carattere che ho mi va più che bene. E le donne sono pure un po' più aggressive su... Quindi il rugby è a pennello. Lo sento dal tono della voce, meno male che siamo al telefono, non voglio farti arrabbiare. Tra l'altro è anche singolare il fatto che tu abbia scoperto questo sport al sud, no? Dove tradizionalmente le strutture anche per il rugby, anche se poi c'è una buona tradizione come a Catania eccetera eccetera, però sono sicuramente inferiori. Ecco, come l'hai scoperta la palla ovale? Io abito a 7 km dal centro di Messina e questo paesello qui c'aveva una squadra appena formata, mi hanno chiesto vuoi giocare, ho detto così per sbaglio, mi sono avvicinata, qualche amica iniziava, ho detto vabbè sì, mi è piaciuto dal primo allenamento, secondo allenamento già giocavo. Già era mio. Anche perché poi diciamo le praticanti in Italia quante sono su per giù? Non ho idea, guarda, non fanno mai questa siamo domanda. Siamo proprio sotto al migliaio, credo. Sicuramente, e al sud non ce ne sono tante, noi appena facciamo una squadretta di 7 che chiamiamo la Sicilia, ma è un misto tra vecchie giocatrici del Messina e qualche giocatrice del Catania e qualche giocatrice della provincia di Siracusa, addirittura. Quindi insomma siete non arrivate a fare una pizzata, ecco. Perfetto, immagino. E invece, ma ti chiedo una curiosità, ma anche la nazionale neozelandese femminile fa la haka? Sì, non è haka però sì, perché è una danza di guerra l'haka, uh-huh. E la possono fare soltanto gli uomini, loro fanno un'altra danza, anche quella sempre per presentarsi all'avversario. Quindi anche quella sarebbe da importare nel nostro spogliatoio, che dici? Magari una versione azzurra si può fare? Non credo proprio. Beh, senti, tra l'altro con i neozelandesi, che noi di solito dice vabbè, ma voi siete così forti a rugby, però noi a calcio, quest'anno ci hanno fatto soffrire pure ai mondiali sudafricani, quindi immagino che belle prese in giro vi siano. Assolutamente sì. Primo di tutto tuo marito sarà stato il primo a prenderti mio marito giro. Sì, era contentissimo di aver pareggiato con l'Italia, ma tutti gli altri, sapendo che gioco per l'Italia rugby è, però noi l'anno scorso avete vinto la Coppa del Mondo, quest'anno noi abbiamo pareggiato con l'Italia. Sì, mi hanno preso in giro anche al campo, niente, è stato brutto. Beh, speriamo di riscattarci magari nel rugby, oddio, la vedo dura. Tra l'altro siamo alla vigilia di un grandissimo appuntamento, Coppa del Mondo 2011 che torna proprio in Nuova Zelanda. Beh, raccontaci qualche dettaglio dei preparativi, immagino un paese con la testa ovale. Un paese con la testa ovale che già da 2 anni aspetta questo evento. E sono veramente organizzatissimi, già hanno organizzato la gente che deve stare all'aeroporto, le indicazioni da dare, sono straorganizzati, i campi sono stati messi a nuovo, Eden Park è appena aperto, quello di Auckland dove ospiterà le finali ed è meraviglioso, non so quanti posti hanno aggiunto. Non si parla d'altro, veramente, aspettano milioni e milioni di spettatori. Tu da italiana come sei stata accolta sul campo da rugby? Qualche pregiudizio? No, pregiudizio no, perché non penso credessero che in Italia si giocasse a rugby femminile. Però no, adesso bene, all'inizio effettivamente ero l'extracomunitaria della situazione. Quindi insomma, dagli di placcaggio per far capire che... Sì, ma infatti sì, basta sgomitare, alla fine sul campo si vede il valore del giocatore, non dalla nazionalità. Perfettamente d'accordo. Immagino anche una Nuova Zelanda scossa dalla tragedia recente del terremoto di Christchurch, che sarà una delle sedi, tra l'altro, delle partite mondiali. Conoscendo la tempra dei neozelandesi, riusciranno a reagire a questo dramma, Giuliana? Ci stanno lavorando. Sicuramente è stata una grossa perdita e sicuramente sarà spostata la tappa che doveva ospitare l'Australia, Christchurch, cioè doveva ospitare l'Australia come base, e non credo che si farà lì. Già è stato detto che sposteranno, perché è difficile ricostruire una città che praticamente è quasi devastata, è l'Aquila italiana, l'Aquila neozelandese. Continua ad avere scosse e non è molto, molto stabile la situazione. E l'occasione, è chiaro, è anche preziosa per ribadire la nostra vicinanza al popolo neozelandese. Per quanto riguarda lo spirito di quel rugby e di quell'amore per la palla ovale, cosa riesci a importare ogni anno tra le nostre ragazze che vivono in un altro contesto, con tutt'altro ritmi e intensità, magari la passione per il rugby? Guarda, l'unica cosa che posso ancora portare e in che credo è l'umiltà, l'umiltà in campo, l'umiltà fuori. Questi ragazzi che giocano in Nuova Zelanda, dagli All Blacks alle Black Fern, sono giocatori normalissimi, non hanno niente di più. Se ti vengono per la strada ti salutano, ti fanno l'autografo, si fanno le fotografie, non hanno il problema degli sponsor, del manager, sono veramente molto umili. Quindi quello che penso che posso dare alle mie compagne è di allenarsi al massimo, al 100%, e di restare umili. Un po' insomma come i nostri calciatori, se ho capito. No, lo so proprio, lo posso. Lo posso dei nostri calciatori. Ma secondo te c'è al momento attuale qualcuna delle tue compagne di nazionale che potrebbe seguirti nel viaggio in Nuova Zelanda? Il nostro già due o tre prima o poi verranno. Alla fine tocca fare il sugo per tutti, per la famiglia e pure per le compagne. Sì. Sicuramente, lo faccio con tutto il cuore. Esperienza che bisogna fare. Piatto tipico neozelandese su cui sei più preparata in cucina? Bacon egg. Vabbè, allora andiamo sul facile, mentre ti lasciamo allora alle imprese ben più difficili sul campo da rugby. Grazie a Giuliana Campanella, terza linea della nostra nazionale femminile del Sei Nazioni. E allora, mi raccomando, facciamo bene anche contro la Francia e la Scozia, eh? Sicuramente. A bordo campo. Voglio trovare un senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Conquista il primo podio in Coppa del Mondo il 1 dicembre del 2006, piazzandosi al terzo posto nella discesa libera di Lake Lewis sulla stessa pista. Poi il 6 dicembre del 2008, all'81esima gara in Coppa del Mondo della sua carriera, ottiene la prima vittoria in super gigante dopo il secondo posto nella discesa di due giorni prima. E poi ai mondiali in Val d'Isère del febbraio 2009 arriva la medaglia di bronzo in discesa libera. Beh, avete capito che oggi parliamo di sci e parliamo anche di una grande campionessa del nostro sci alpino. Benvenuta allora a bordo campo a Nadia Fanchini. Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora Nadia, un bel palmarès, purtroppo però anche l'elenco degli infortuni è altrettanto lungo, eh. Io vado rapidamente così saltellando tra cartelle cliniche e dati biografici, ma insomma purtroppo abbiamo ancora negli occhi la caduta nel supergigante di St. Moritz il 31 gennaio 2010 con la lesione di entrambi i legamenti, i crociati e collaterali, che ti è costata tanto dolore, e l'Olimpiade di Vancouver. E poi gennaio 2011, 22 gennaio, poco tempo fa, dopo altrettanta fatica, provi a rientrare come apripista nella discesa di Cortina, e che succede? Purtroppo sono caduta verso la fine, a fine gara praticamente, purtroppo sono caduta e ho spigolato, ho cercato di riprendere lo sci ma invece ha preso una direzione totalmente sbagliata e di nuovo ho avuto una torsione al ginocchio e quindi sono poi caduta, sono volata nelle reti, perché veramente tante volte mi chiedo se non cado in modo clamoroso, veramente... e purtroppo insomma, non hai mezze misure, insomma. No, infatti, però ecco, ho cercato di tenere duro, comunque mi sono rialzata, sono arrivata in fondo con le mie gambe, pur sapendo di aver fatto comunque di nuovo qualcosa al ginocchio. Ero veramente, non ero tanto triste per il fatto di non sentivo tanto il male, non era perché ero disperata per il male, ma quanto avevo un po' di tristezza nel cuore, perché dicevo non è possibile. Però vabbè, adesso affronteremo anche questa, dai. Beh, ecco, già avete capito che da queste parole stiamo parlando con una campionessa fuori dal comune, perché 24 anni, bresciana della Val Camonica, fa coppia con la sorella Elena come miglior talenti della nostra squadra di velocità in azzurro. Ma quello che stupisce è questa straordinaria forza di volontà. Io oggi sono quasi raffreddato e facevo fatica ad alzarmi dal letto. Sentirti raccontare questo episodio mi fa venire normale chiederti: ma come fai? È un po' la forza, appunto, la voglia nel cuore che si ha, la voglia, perché appunto questo è comunque uno sport che io amo tanto e mi ha dato tanto. Sicuramente ho fatto tanti sacrifici, ma mi ha dato anche tanto, e per me tutti questi infortuni che mi hanno bloccata sicuramente non hanno fatto bene, perché tante volte appunto mi domando con rammarico se non ci fossero stati tutti questi infortuni quanti risultati magari avrei avuto in meglio. Però alla fine accetto anche queste circostanze, cerco di lottare, andare avanti, perché appunto la voglia nel cuore che hai, la voglia di fare questo sport, ti porta anche a avere poi una forza d'animo grande, di una sfida da un qualcosa di vuoi recuperare a tutta comunque sempre. Eh beh sì, è una sfida da brividi, tra l'altro, che coinvolge tutta la famiglia, no? So che nella stanza a fianco, rispetto a quella da cui stai parlando, c'è mamma che già sta preparando il pranzo, la cena, insomma tutta la famiglia coinvolta nel non farti mancare niente sulla strada del recupero, no? Eh beh sì, sicuramente, ecco, già, sicuramente poi è importantissimo anche quello che hai sempre la famiglia che ti dà un grande sostegno, famiglia, amici e tutte le persone comunque che ti vogliono bene ti danno un grande sostegno, e in questi casi veramente è molto importante. Credo che anche la vicinanza con Elena sia un supporto importante, no? Anche se chiaramente lei continua a gareggiare, ma in qualche modo anche per far coraggio a te e per tenere comunque alto il vessillo di casa Fanchini. Beh, sicuramente anche il fatto che Elena scia con me è molto bello, tra noi non c'è mai stata comunque competizione, no, fra di noi, quindi è molto bello, stiamo molto bene, quando siamo in giro siamo molto complici fra di noi, quindi stiamo molto bene. E poi c'è anche la sorellina più piccola, appunto, anche lei adesso in giro a fare Coppa Europa. Adesso purtroppo non sono qui con me, perché una è a Tarvisio in Coppa del Mondo e l'altra è in Coppa Europa in Polonia, quindi diciamo che loro sono un po' distanti, però le sento sempre, e anche loro sono un grande supporto per me. Ecco, non si prendessero troppe libertà, perché fra qualche mese torni anche tu sugli sci e poi non ce n'è per nessuno, eh? Mandiamogli ufficialmente questo avviso alle sorelline. Sì, no, per me è una speranza davvero, soprattutto anche con la Elena, faccio da Coppa del Mondo da anni, dal 2005, e quindi adesso spero che, anche dato che Sabrina ha iniziato a fare le sue prime gare in Coppa del Mondo quest'anno, spero che di poter fare una gara anche con lei in Coppa del Mondo poi nel mio rientro. Spero che vada tutto bene e che questa volta la sfortuna mi abbia definitivamente abbandonato e possa comunque gareggiare tranquillamente anche a fianco delle mie sorelle, appunto. Ecco, sulla via del recupero come si svolge ora la tua giornata tipo? Tanta palestra, tanto lavoro, immagino, vero? Purtroppo vabbè, sono stata operata lunedì adesso, e quindi ho una settimana, devo tenere il tutore a 20 gradi e devo stare praticamente, sto praticamente sul divano e non posso fare nient'altro, mi fa un po' male, se non riesco, ho le stampelle ma non posso appoggiare la gamba, quindi faccio un po' fatica appena mi alzo, sento un po' di dolori così, però è solo per le prime 2 settimane, poi inizierò fra 2 settimane appunto a fare la fisioterapia, e da lì sicuramente mi ruberà parecchio tempo, perché mi ricordo almeno per l'anno scorso, dopo che ho avuto l'operazione, comunque mattina e pomeriggio ero molto impegnata, soprattutto l'anno scorso erano 2 gambe, quindi capitava di andare in palestra alle 8 e uscire verso 1:30, 2, poi andare in piscina ancora più tardi, e quindi è abbastanza impegnativo. Però alla fine, se vuoi l'obiettivo di rientrare e vuoi entrare in forma, vuoi entrare bene, devi fare anche questi sacrifici, purtroppo. c'è così. E senti, questo tempo sul divano come lo occupi? iPod, musica, libri, immagino che tra l'altro insomma un po' complicato per un atleta abituato sempre in movimento, sempre in trasferta, sci in spalla, ritrovarsi forzatamente ferma così, no? Sì, è vero, quello è vero, molto, infatti mi lamento ogni tanto perché anche quelli che mi chiamano dicono non ce la faccio più a stare qua seduta, perché è veramente abituata un po' a fare tutto, non essere mai comunque, non passo le mie giornate sul divano davanti alla tele, adesso appunto sì, lo passo davanti su internet, a tele, un po' musica, un po' tutto, però è veramente dura per me perché stare qua immobile poi sei un po' di dolore così, quindi non è facile, non è semplice, però bisogna tenere duro un paio di settimane e poi va sempre meglio ogni giorno dopo l'operazione, va sempre meglio in teoria, quindi bisogna patentare proprio il primo tempo, quindi poi spero che vada bene. Senti, c'è una canzone o un gruppo, un cantante che ti tiene particolarmente compagnia, a cui sei particolarmente affezionata in questo momento di stop forzato? Ma sì, no, io ascolto sempre parecchio, ma ascolto tutta la musica italiana, anche un po' di tutto perché mi piace tutta la musica, poi in particolare ascolto molto Vasco Rossi perché con mia sorella così anche siamo molto fan, andiamo anche i concerti così, adesso abbiamo preso i biglietti proprio l'altro, 2 giorni fa per andare a vedere il concerto il 21 a San Siro, quindi sono molto contenta da quello. Quindi lì sarò già verso il rientro, verso la fine terapia così, quindi starò già bene. Bene, bene, quindi agenda già piena sia in pista che fuori, ma da quello che mi dici non credo che ce ne sia gran bisogno, ma dal punto di vista psicologico ti stai avvalendo di un supporto particolare, di un esperto, di un mental trainer per fronteggiare tutti i problemi di infortuni così ravvicinati e ripetuti, oppure basta questo grande cuore e basta questa grande passione? Ma sinceramente io adesso non sto sentendo nessuno, quindi c'è uno psicologo della squadra che praticamente va in giro un po' quando siamo in giro noi a fare le gare, a fare gli allenamenti, gire, quindi al bisogno si può parlare insieme, però adesso qua a casa così non sinceramente non sto parlando con nessuno, cerco di reagire un po' io con un po' di per me stessa e un po' con la gente che mi sta vicina, insomma, che mi sostiene. Beh, direi che l'autoterapia funziona benissimo. Nadia, torniamo un attimo in pista. Questa Coppa del Mondo chi la vince? La Rich o la Von? Qua è questione di punticini e centesimi di secondo. Sono tutte e due molto forti e due fuori classe, però è vero anche che la Von è 3 anni che porta a casa questa Coppa del Mondo. Io spero intanto la Rich perché comunque è una ragazza fantastica e è molto umile e tutto, mi piace molto, quindi io spero veramente che quest'anno la vinca lei o no, perché la Von comunque è molto brava, però ha vinto già abbastanza, quindi anche se lascia spazio un po' anche alle altre ragazze è giusto che vinca anche qualcun altro, e la Rich sta facendo veramente vedere il carattere, che non molla e che questa coppa la vuole, spero veramente, cioè veramente che la vinca lei, io punto su di lei, poi so che magari la Von ogni tanto qualcosa in più, però lei ha tanto cuore, quindi spero che possa vincere lei questa Coppa del Mondo. E allora Nadia Fanchini, oggi ti abbiamo ospitato a bordo campo su Radio 24, l'appuntamento però è per sentirti presto ospite di Effetto Neve alle 16:30 con Massimo Di Scienza, che è la nostra trasmissione dedicata alle gare e ai risultati dello sci e della Coppa del Mondo, per commentare nuovamente le tue vittorie, i tuoi podi e le medaglie, eh? Quindi la prendiamo come una promessa, subito al più presto sugli sci, direi che lo spirito è quello giusto, Nadia. Ok, guarda, spero veramente di tornare e spero che di poter fare risultati, per me quello è l'obiettivo, e quindi spero poi di risentirti appunto. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web. L'appuntamento è per domenica prossima, come d'abitudine alle 14:30, e in replica il sabato mattina alle 6:30. Buona giornata da Dario Ricci.